dobbiamo mangiare in piedi. E allora una volta abbiamo fatto una specie di performance, perché è una cosa vera, cioè Lisbona, che è un posto di buonissimi frutti di mare, a Lisbona hanno addirittura poco prezzo dei frutti di mare che si chiamano persebe, che sono come delle dita che si succhiano, buonissimi, e hanno una cosa che però importano, poi ho scoperto da altri posti, che è la sapatera, che in realtà è un granchio enorme. Sto dicendo delle cose offensive, cioè tutti voi siete contro l'uccisione dei granchi, no. E comunque insomma lì ti portano un martello praticamente per dare colpi al granchio, però in realtà è un posto molto popolare, cioè è un posto che adesso è diventato caro, però si chiama Dulis, Lis del Giglio, no? Come si chiama il posto in cui andammo? Ah, Linz, il ristorante? Sì. Stiamo facendo pubblicità al ristorante? No. Sull'Almirante Reisch c'è un ristorante che, che consiglio. Linz, sì, ed è vero, è tipico di molti ristoranti tradizionali di Lisbona il fatto che si mangi al bancone. E parlavamo prima che in fondo è già un elemento che ci può introdurre al libro. Perché? Perché mangiare al bancone tira dall'imbarazzo chi è solo, dal mangiare solo al tavolo. Gli uomini, dice, guarda questo, sì, povero sfigato che manco c'ha una... E invece al bancone... Che mangia con lui. Quindi al bancone stanno in piedi e fanno finta di essere lì di passaggio. In realtà passano tutta la sera lì in piedi. Sì. E però la cosa molto bella è che buttano, quelle che noi in Sicilia chiamano scorce, cioè buttano le conchiglie che mangiano di marisco per terra, perché c'è questo cumulo molto piacevole da pestare. E insomma, però, allora, lui quando mi ha invitato, io dovevo fare una conferenza a un festival del cinema, e ho fatto una conferenza sul mangiare in piedi, perché in realtà è una cosa che accomuna questi mangiatori di mariscos con il modo con cui a Messina si mangiava lo stocco, cioè il baccalà. Perché in realtà il baccalà si mangiava in alcuni posti in cui non ti davano nemmeno la forchetta, dovevi mangiarlo, ti tiravi fuori il coltello e dovevi farlo a tocchettini e mangiarlo, perché serviva a dimostrare che tu lavoravi e quindi che era una pausa, cioè non è che ti fermavi a mangiare, era veramente uno spuntino, però dovevi dimostrarlo attivamente, cioè in quel modo anche usando gli strumenti di uno spuntino, no? E in piedi. E quindi questa cosa era divertente, perché in realtà in tutta questa vicenda c'è un po' una questione di virilità mal posta, però c'è anche il fatto che effettivamente ti salva dall'imbarazzo, perché effettivamente andare al ristorante da soli è un po' tremendo, cioè non so se... Però le donne viene concesso, ma le donne non stanno mai in piedi, né? O non stanno mai da sole, o non stanno mai da sole, cioè, stanno sempre coi granchi. Sì. Va bene, quindi detto questo, io leggo questa cosa di... Sì, mi hai presentato benissimo. Quindi come uno che se venite a Lisbona vi porta a mangiare sapateras e starete in piedi e dovunque vi porti, eh? Sì, sì. No, poi lui è stato in altri posti, però... Sì. Sì, no, ma qua parliamo del libro di Franco. Oggi, prima di arrivare, ho trovato un appunto che avevo preso tanti anni fa mentre scrivevo un articolo in cui c'era un libro di Franco citato, e per costruire un ragionamento mi ero basato su questa frase di Milan Kundera. Non me la potevi mandare mentre scrivevo? Mentre scrivevo, no, il troppo libro. Facile, troppo facile. Ok. Però no, perché c'è... poi durante la scrittura ovviamente l'ho interpellato disperatamente varie volte, ma vabbè. Quindi vuoi leggere questa frase? Leggo questa frase e poi... Oppure dopo. Come dopo? Dopo la leggi, perché può essere... Va bene, comunque legge, può essere un'introduzione. Dopo, vediamo che vuoi dire. No, allora, perché dicevo dopo? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per stare qui. E grazie per l'invito. E, essendo un libro sull'imbarazzo, e naturalmente sentendomi in parte imbarazzato, che fa parte anche, no? Inevitabile, e... Dico sin da subito che oggi in realtà sono stato, più che a leggere il libro di Franco, a informarmi sull'arsenale russo, perché ero angosciatissimo, no? Del potenziale distruttivo delle armate russe. E quindi ho portato con me sul treno il libro Esiste un mondo a finire? Ah, sì. Quindi saggio sulle paure della fine, però non ne parlerò. È solo per dire che dopo questa presentazione comincerò a esorcizzare la mia angoscia con questo testo. E allora, traditi i sentimenti. Questo libro ho cercato di leggerlo e ho cercato di metterlo in imbarazzo. Come? Leggendolo in maniera così scompaginata, saltando i capitoli, ritornandoci, leggendo la fine prima dell'inizio, lasciandomi così sedurre dai titoli dell'indice, una lettura fuori posto, insomma un po' delirante. Adesso la pubblicherò in questa versione. Iperlink, certo. Non lineare, e volevo vedere se il libro arrossiva, non è arrossiva. Niente, non ha ceduto alla vergogna di essere letto così. Però poi, insomma, era un tentativo di vedere, di capire, visto che è un libro con tanti capitoli brevi, uno stile frammentario che da qualche anno caratterizza un po' la tua scrittura. Eh sì, perché allora, queste penne Dick che sì. si scaricano subito l'inchiostro. Sì. E ad ogni modo, poi ho fatto una lettura più lineare e più complessiva. E quindi, oltre a poter dire e poter certificare appunto l'imbarazzo di presentare questo libro, non perché sia un libro imbarazzante, tu ci tieni a, no? No. Nella fine, all'inizio e alla fine del libro, le prime cose che ho letto, Franco in qualche modo dice: vorrei tanto che la scrittura fosse uno strumento imbarazzante, non solo per chi scrive, ma soprattutto, no? Per chi legge. Dice, questo imbarazzo è un imbarazzo che magari è della lunga durata, non è detto che vi dobbiate sentire imbarazzati sul momento, però dopo potreste avere un rigurgito di quello che avete letto, e quello che avete letto, la mia speranza è che possa avervi, non dico disturbato, però in qualche modo creato qualche impasse, no? Qualche perplessità, qualche dubbio, qualche discontinuità. Sfastariato, sì. E che stava di? Non lo so. Ecco, quindi è questo tipo di commento. In realtà oggi ho chiesto a qualche amico, ho detto: ma che cos'è che a voi vi fa ancora arrossire? O che cos'è che vi può mettere in imbarazzo ancora? O cioè, quali sono le cose che più vi imbarazzano? La prima risposta è stata proprio un po' come Franco finisce il libro. Tu credi che ancora qualcuno si imbarazza? Ma hai visto come scriviamo, come parliamo? I congiuntivi ormai uno deve chiedere scusa quando li azzecca. No, questo non lo dico, però vabbè. No, non parla dei congiuntivi, però parli del fatto che in realtà dovremmo essere ormai immuni a qualsiasi tipo di imbarazzo. Certo. No? E questa è stata tipo una prima risposta. Ormai non si imbarazza più nessuno. Un'altra risposta interessante è stata: io mi imbarazzo quando voglio far vedere una foto a un amico sul telefono e questo comincia a spulciare tutta la galleria delle foto. Certo, quello momento, e questo manca, secondo me. Questo manca. Questo sì. Manca nel libro. Questa è mai interessante perché in effetti è come se la privacy ormai sta più qua che nelle stanze. Beh, però segrete. Queste erano le filmine dell'estate, dai, c'era già però. Le filmine dell'estate. Super 8. Però comunque il libro è un libro che comincia con un riferimento, non so se quanti di voi conoscono la teoria drammaturgica del sociale, la teoria drammaturgica della vita quotidiana. È un famoso sociologo canadese, Erwin Goffman, e Franco comincia un po' citando a più riprese questo autore, la cui teoria in fondo è quella per cui quando noi lasciamo casa nostra è come se lasciassimo il camerino di un teatro, l'unico luogo in cui possiamo sentirci protetti, difesi, a nostro agio, dallo sguardo, no, altrui, e poi non appena usciamo di casa comincia una vita, diciamo, preoccupata del ruolo che bisogna svolgere in società. Quindi la vita diventa un palcoscenico. Un inferno. Diventa un inferno perché devi riuscire a stare, diciamo, all'altezza di tutti i contesti e di tutte le aspettative che ogni contesto porta con sé. E quindi sei sempre in qualche modo preoccupato di fare brutta figura. Se c'è infatti una cosa che può dire che cos'è l'imbarazzo, vuol dire che mentre il comico o il ridicolo è il successo di qualcosa inaspettato, per cui tutti magari cominciano a ridere, ma una cosa imprevista che però cade bene. L'imbarazzo è come il fallimento, la delusione di qualcosa che era atteso e che non succede, no? E quindi è un inciampo, è... ci aspettavamo una cosa, ma hai fatto cilecca, o senti di aver fatto cilecca, perché comunque Goffman è guardato da Franco in un modo molto appunto crudele, pessimista, no? In realtà è vero che ha questo aspetto così, possiamo dire, esigente rispetto al vivere in società, però è anche vero che ha una dimensione per cui il rituale dell'interazione è guardato come un rituale che in qualche forma conferma, onora, celebra la cerimonialità dell'incontro o del contesto, della situazione. Diciamo, è una sociologia, una drammaturgia che oscilla tra l'inferno del dover stare sempre all'altezza, ma anche la... il rispetto per il tuo interlocutore, in qualche modo, perché in fondo ci salviamo la faccia costantemente a vicenda. Quindi nel condividere questa preoccupazione per la nostra immagine in società pubblica, condividiamo e dividiamo allo stesso tempo lo stress. Una parte te la tieni tu, una parte me la tengo io, e ci mettiamo d'accordo per, diciamo, non deprimerci troppo se sbagliamo qualcosa, se diciamo qualcosa di stonato, no? Un po' è, per cui c'è anche un Goffman che magari ci aiuta a recuperare pure un aspetto di ritualità, no? C'è la società dell'etichetta, quella tipica raccontata da Norbert Elias, certo, della società nobiliare, dove devi rispettare dei codici, delle buone maniere che devono essere sempre pertinenti a modo. E questo sì, forse è un po' un inferno, ma c'è anche quella preoccupazione di tenere ogni l'aggio, anche se apparente, costantemente a portata di mano. E qua ci aiutiamo. Cioè, siamo organizzati in società quasi per tenere sotto pressione la paura, no? Di scivolare e creare imbarazzo e sentire imbarazzo. Però appunto l'imbarazzo è come il fallimento di qualcosa che era atteso e che viene disatteso. E poi una delle prime cose che viene fuori dal libro di Franco. Poi c'è una simpatica, un'importante distinzione con la vergogna. No? Mi sembra di capire che, riprendendo uno studio di un'antropologa di cui non ricordo il nome, la vergogna è sempre associata a un senso di colpa. La vergogna è qualcosa di cui sentirsi in colpa, è qualcosa che si esperisce in un contesto moralmente caratterizzato, no? Dove c'è questa normatività e questo moralismo sempre incombente, per cui diciamo ci possiamo imbarazzare per dei complimenti, ma non ci possiamo vergognare per dei complimenti, no? E quindi la vergogna è qualcosa che subito attribuiamo a un difetto, necessariamente un difetto anche appunto di cui sei colpevole. Una questione alla fine morale, cioè di una... Morale. Cioè, quindi molto più interiore, mentre invece l'imbarazzo è un'infrazione che però ha a che fare molto col contesto e quindi non va così in profondità. Però non sempre, cioè, certo. La cosa che mi sono andato a leggere un po', io ho fatto degli studi, mi sono sempre appassionato dell'antropologia filosofica, lui è un'antropologia culturale, io seguo molto l'antropologia culturale, ma mi ha sempre affascinato molto l'antropologia filosofica, io avevo suggerito un autore in particolare a Franco, che è Helmut Plesner, che sta in questo testo, sul riso e il pianto. Ma perché? Perché l'antropologia filosofica insiste molto sui processi antropogenetici, cioè quali sono le condizioni antropologiche, biologiche, logiche, sociali, che fanno sì che l'animale umano sia umano. Cioè, che cos'è che rende l'essere umano umano. E tra una delle, diciamo, dei sentimenti considerati da Gunther Anders, ma non solo, ho trovato poi Matte Blanco nell'area della psicanalisi, uno dei sentimenti che, diciamo, viene considerato antropogenetico e quindi cioè funzionale allo sviluppo di potenzialità antropologiche, è la vergogna. Però la vergogna, pensate, in una prospettiva che c'è anche nel libro qui, e cioè quando si parla di Stanley Cavell e di Davide Sparti, cioè la vergogna del fatto che ogni essere umano scopre che è dipendente da un altro essere umano o da un insieme di esseri umani. Cioè il fatto che qualsiasi essere umano ha la percezione che può più o meno rimuovere, negare, ma è incarnata, del fatto che riesce a farcela, a sfangarla, a sopravvivere, a venire fuori, solo grazie al fatto che c'è una socialità che lo sostiene. Diciamo che è la socialità, è come se fosse non la causa di un sentimento, di un'emozione individuale, ma è proprio l'identità dell'emozione di se stesso, la socialità. Io avevo preso una frase che era di Gilbert Simondon, che mi sembrava molto bella, che scrive l'emozione, questo tipo di emozioni molto, diciamo, forte, considerate come originarie, dice l'emozione è la risonanza con ciò che c'è dell'individuale. Cioè in fondo è come dire che abbiamo una costante, non è che dire un'emozione originaria significa archeologica, no, significa che è costante. Costantemente noi facciamo prova di questo tipo di emozione, cioè che la socialità, la nostra emozione è sempre un rispecchiamento, una risonanza, un effetto boomerang o del fatto che stiamo con altri. E questo stare con altri può ma creare... Ma questo lo cito io. Lo dici a proposito di Davide, della presenza in no, Davide Sparti no, no, lo e dico Levinas. Secondo me citando la Rosaldo. La Rosaldo. Sì, perché è vero, cioè lei... Che lei fa questo discorso dicendo che fondamentalmente noi siamo convinti che le emozioni sono delle cose oscillatorie, mentre invece le emozioni sono molto più delle costanti, e sono delle costanti che poi cambiano ovviamente dalla cultura a cultura, però sono molto più costanti delle cose razionali, cioè sono addirittura lei dice che sono una forma di performance l'emozione, cioè tu sai cosa devi, che emozione devi performare in certi momenti. E sicuramente no, infatti c'entra col discorso della vergogna. Cioè. Comunque la cosa che viene messa in risalto, rossori, lacrime, imbarazzi, è come tutte queste stratificazioni, no, del sentire sono... diciamo aspetti di cui in teoria bisognerebbe imbarazzarsi o vergognarsi, imbarazzarsi. Ossia sono generalmente interpretati come delle defaillance, no? L'arrossire, il piangere o lo stesso imbarazzo, no? Sono delle sbavature. Esatto, tu dici delle sbavature. Delle bavure, cioè nel senso che è una cosa che tu dovresti... contenerla, ma non ci riesce. C'è questa storia bellissima che però qualcuno conosce già, di questa tipa che va in taxi e a New York, e allora il tassista è sudanese e il tassista ha un block note sul taxi, perché lui appunto, e dice ma a cosa le serve? E quello diceva perché in realtà io sto imparando delle parole inglesi che non so, e quindi dice per esempio cosa significa burp, no? E la cliente molto gentile dice burp significa ruttare, e tra l'altro gli fa credo il rumore per farglielo capire, to burp. E poi il taxi va avanti e lei ci pensa un po' per essere molto gentile, e lei gli chiede ma do you know the meaning of fart, no? il significato di, così c'è in italiano fatto, di scorreggiare. E allora, e il quello dice sì, come no, perché da noi in Sudan se uno scorreggia non può più vivere nel villaggio, cioè lo mandano proprio via. No. Ed è una cosa divertente perché quando io ho fatto il libro con Zanini sulla morale quotidiana, c'era questa tribù in cui tre cose non si potevano fare: mentire, rubare e scorreggiare. E tu dici, ma perché? Dice, perché sono tutte forme del non riuscire a contenersi. Quindi, e se tu facevi una di queste tre cose venivi mandato via. Non è che ti davano il carcere, però certo nel villaggio non ci tornavi, questa è l'altra cosa. Ora sarebbe divertente questo, se applicarlo. Venirà fuori uno stigma. Sì, però sarebbe divertente capire se abbiamo esempi di posti in cui viene cacciato via. Nei club inglesi sicuramente venivi cacciato via se facevi alcune cose o se non le facevi, no? Abbiamo ancora esempi di questo tipo, cioè dove vieni cacciato via? Forse sì, cioè, il political correct è un po' questo, no? Per esempio... Non so, nei film di Checco Zalone, quando si trova nel circolo della Lega, viene cacciato via, no? Dopo certo. Un poco. Perché dice, certo. Perché lui fa là un po' il Charlie Chaplin della situazione, che sbava da tutte le parti, no? Certo. Le sbavature sono costanti. Però ci sono due aspetti che sono, diciamo, è l'ambivalenza di questo tipo di emozioni. Da un lato sbavature, dall'altro lato meno male che ci sono queste sbavature. Perché se da una parte Goffman è come se insistesse sulla necessità di una maschera, no, costante per gestire il traffico delle relazioni umane, dall'altra parte questa sarebbe un po' la sclerosi, la rigidità di un sistema sociale che per innovarsi, cambiare, trasformarsi, insomma, ha la vita più difficile. Quindi diciamo che le sbavature, le inesattezze, il ridicolo, l'imbarazzo, sono anche degli apripista. Nel senso che ti permettono di allargare lo spettro della tolleranza rispetto agli errori, o ti addolcisce, ti rende più plastica la situazione, no? Più porosa rispetto alle contingenze, agli imprevisti. E quindi diciamo, da un lato meno male, no? Che ci sia questa possibilità di imbarazzarsi, di arrossire, di vergognarsi, perché significa che siamo in un processo di apertura, di metamorfosi sempre possibile, no? Dei cambiamenti di etichetta, di codici. Sì, è come se gli imbarazzi fossero queste, cosa vendevano qui le guarnizioni elastiche? Cioè, hanno molto a che fare coi giunti, no? Col fatto che di avere qualcosa che ti consente un minimo di gioco. Però il punto è che, però purtroppo non è, cioè io sono convinto che però gli imbarazzi sono anche, cioè non esci, cioè so che uscire fuori da un imbarazzo non è facilissimo, cioè l'imbarazzo richiede una mini sospensione. Cioè nel senso che comunque sei caduto, sei inciampato. Questo, cioè, da noi si dice faccia in terra, cioè la faccia per terra, no? Che non è poco. Allora, per cui secondo me non è una cosa così... Cioè non è che l'imbarazzo nel momento in cui avviene non ti consente assolutamente di usarlo, no? Lo puoi usare per capire che, per esempio... hai fatto qualcosa che non c'entrava, questo sì, cioè lo puoi usare perché è una maniera di sondare il contesto e di capire che in quel contesto, cioè è divertentissimo quando uno sbaglia tono, sbaglia linguaggio, quando si, per esempio il grande imbarazzo del, che adesso non c'è più tanto, però in qualche modo all'università del tu lei, no? Di quando da entrambe le parti, no? È imbarazzante capire se puoi dargli del tu oppure se gli devi dare del lei, no? Questo. E però, cioè, nel senso che poi uno capisce che non è che tutte le situazioni sono uguali, anzi che tu trascorri la giornata passando da un contesto all'altro e molto spesso rischiando di portarti appresso il contesto di prima. No, questa è l'altra cosa. Ci sono intensità, no? Dell'imbarazzo diverse, alcune sono, provocano anche, diciamo, delle ferite che servono anche per capire un po' il mondo, no? Il parvenu, c'è una parte molto bella su Fitzgerald, dove nella letteratura di Fitzgerald ci sono questi personaggi che ambiscono a uno Entrare. status sociale e però saranno sempre degli estranei rispetto a quello status Che poi sociale. è la stessa storia di Goffman, cioè sono gli stessi anni, perché Goffman era anche lui era un canadese che veniva da un mondo diversissimo, si infila a Berkeley, lo accettano, ma nessuno sa mai nulla veramente di lui, credo. Cioè c'era questa storia. È un eterno fuorisede. Sì, cioè per cui cioè, e sono gli stessi anni di cui viene scritto Gatsby, no? Più o meno, e comunque sono gli anni in cui la società americana è molto, cioè sembra una società aperta, ma in realtà invece è molto stigmatizzante, molto forte, molto, cioè, se, devi farcela in un certo No, la cosa, io per esempio pensavo, prima di riprendere un attimo questa questione sulle, perché poi qua c'è una domanda, no? Una cosa è l'imbarazzo da giovane, quella della citazione di Kundera, un'altra cosa è un imbarazzo da 40-70 anni, no? Perché appunto ci sono imbarazzi che ti fanno male quando hai la pelle, diciamo, sottile, il Certo. filtro, la separazione dal mondo è ancora una separazione poco filtrata, hai una difesa E minima. E poi allora invece? sbatti e ti fai male, molto male, con Certo. l'imbarazzo. Un'altra cosa è una certa età in cui può valere il rilassati, In no? cui c'è uno, da noi si dice, uno c'ha il pelo sullo stomaco. Non so se si dice anche da voi. Ecco, anche da voi. Allora, perché? Come mai? È strano. Però, insomma, cioè, però è interessante il pelo sullo stomaco. Il pelo sullo stomaco è il fatto che il tuo stomaco non è più una parte tenera, no? Cioè, però è buffo perché non si dice c'hai la corazza, c'hai il pelo sullo stomaco. Però non si capisce se il pelo è dentro lo stomaco, per cui ti consente di digerire cose che prima non digerivi, o se è fuori. No, sarebbe interessante capire se c'è un'origine. Penso più fuori. Non lo so, sai, non sono sicuro. Perché, però spiegamelo perché. Cioè, perché i gorilla hanno il pelo sullo stomaco. Cioè, Beh, qual forse sei cresciuto, c'è esperienza, ti è? Il pelo sullo. sei. Sì. Penso, eh? Però quello che volevo dire è che un concetto chiave è saperci fare, no? Allora, saperci fare è un'espressione che Franco usa per descrivere chi ha padronanza di sé, chi è capace di dimostrare di essere padroni di sé, nei vari contesti, diciamo, del quotidiano, cioè di capire che fa, non far capire che non ti senti a tuo Di agio. che capace di simulare che tu hai una padronanza di te. Simulare che sei autentico, ma in realtà non sei affatto spontaneo, perché dietro c'è un lavoro, no? Di addestramento del corpo. Si impara con lo sciopetto di birra. La prima volta che esci con gli amici, tu devi imparare a tenere la birra, il peroncino. Perché c'è una maniera di tenere il peroncino che vale molto di più della maniera di fumare. Cioè, fumare è una chiave fondamentale, io non fumo, quindi no. Però fumare, tenere la sigaretta per gli adolescenti è una cosa terribile, secondo me, Esatto. perché appunto puoi tenerla da donne o da uomini, perché una volta c'era questa distinzione, non so se l'avete notato, forse non c'è più, però c'era una maniera in cui le ragazze erano tenute a tenere la sigaretta, che era una maniera diversa da come lo dovevano tenere i ragazzi, no? E dove le ragazze dovevano simulare una specie di è la prima che fumo, no? E invece i ragazzi dovevano tipo simulare che erano assolutamente scafati, avevano i polmoni ormai ridotti in poltiglia. La stessa cosa vale per l'alcol. Per esempio, è che manca un capitolo sull'alcol, perché anche se c'è Socrate, però sicuramente una delle cose divertenti è che cioè, l'alcol, il bicchiere è una chiave. Ora, non so se avete osservato la diffusione a macchia d'olio dello spritz negli ultimi 30 anni, che è una diffusione preoccupante, perché la gente dovrebbe ordinare lo spritz dappertutto? Cioè, sono un sacco di cocktail molto più buoni, però lo spritz fa padronanza, cioè hai la mano così, anche se non c'hai il bicchiere in mano sempre, e praticamente dimostri che stai bevendo. Cioè, questo è... Poi lo spritz lo possono bere anche gli americani, anche gli astemi, perché tanto l'importante è fare sentire il rumore il rumore dei ghiaccioli dentro, no? E quindi è questa cosa, e poi lo spritz si vede, c'ha un colore, cioè, mentre il gin tonic, ginetonic, come si dice, non ha colore, invece lo spritz ha colore, quindi è un richiamo fortissimo. Caratterizza di più. Certo. Allora, sto bevendo. Oh, che si sappia. Però poi c'è maniere di bere. Questo è interessante. C'è tutta una cultura del... Però secondo il saperci fare... Sì. Se io ho capito bene... Sì. Poi volevo farti una domanda sulla gingigna. Per esempio, ma sul... Una cosa è appunto dimostrare padronanza senza averla, perché l'hai appresa, no? E quindi riesci a sembrare a tuo agio, però non si vede tutte le prove, certo, no? Che hai fatto. Altra cosa è invece come molte pratiche, abitudini, c'è questa cosa in un capitolo sui immigrati negli Stati Uniti di generazioni diverse, no? Che ci sono invece quelli che riescono ad assimilarsi più facilmente perché arrivano in un'età tale per cui certi modi di fare, di dire, di percepire, di stare anche in silenzio, di scroccare la lingua, di camminare, non sono stati appresi, ma sono stati presi. Cioè sono stati come un virus, non sei consapevole. È una cosa che stando assieme a qualcuno, per mimesi, assimili. Questo, ma anche il capitolo, cioè un capitolo sul turpiloquio. Quando tu per la prima volta dici cazzo, e c'hai tipo 3 anni e mezzo, no? E ti senti un dio. E a Palermo molto prima di 3 anni e mezzo. Allo Zen, io avevo un amico tuo che anche forse Zella, l'avevo conosciuto Petruzza, che vi insegnava allo Zen. Lo Zen non è una cosa orientale. E insegnava lo Zen e c'erano questi bambini dell'asilo che si guardavano male l'un l'altro tra i banchi e si dicevano io sono tuo padre, che capite tutto il passaggio, no? Ed è impressionante perché cioè, il turpiloquio sicuramente è una maniera di sentirsi a proprio agio, cioè la prima volta che tu ti rendi conto che in casa di fronte ai tuoi genitori ti scappa minchia, cioè tu dici ma chi te l'ha insegnato? Cioè, no, però secondo me questo è perché vale più dell'educazione sessuale, no? Allora, però sappia, questo è interessante, manca un capitolo, chiedo scusa, manca un capitolo sul turpiloquio, chiediamo all'editore adesso di aggiungere. E anche quello quindi sulle generazioni, perché mi interessava molto capire l'intensità di imbarazzo di una persona alla terza, quarta, quinta età, perché ormai no, si arriva a 120 anni, quale può essere l'imbarazzo di un novantenne? Gli acciacchi della salute forse, o scoprirsi nuovamente dipendente da qualcun altro? Perché quella frase di Milan Kundera è una frase su una situazione che racconta in fondo un dramma esistenziale. Leggiamo. A tutti noi noto, eh? A tutti. Lo trovi, lo devo trovare io? Sì. Ma come eri lì che smanettavi? Leggo io, sì. Ce l'ho. Allora, ero uno che aveva facce diverse. Ero serio, entusiasta e convinto alle riunioni. Critico e pungente con gli amici che mi erano più vicini. Ero cinico e spiritoso a tutti i costi con Marchetta, che credo fosse la sua donna o no, sì. E quando stavo da solo e pensavo a Marchetta, ero in genere incerto e agitato, come uno scolaretto. Era forse quest'ultima la faccia autentica? No, tutte quelle facce erano autentiche. Non avevo come gli ipocriti una faccia autentica e delle facce false. Avevo facce diverse perché ero giovane e io stesso non sapevo chi ero e chi volevo essere. Ma la sproporzione fra tutte quelle facce mi faceva venire la tremarella. Mi stavano tutte larghe e mi ci muovevo dietro in maniera goffa e a tentoni. È bellissimo. Però secondo me la cosa bellissima è che è questa idea di fondo che in fin dei conti quando sei giovane è vero che le facce le devi prendere da fuori. Cioè in qualche modo, cioè io devo dire, quando ero giovane, cioè quando avevo 45 anni, ero in America e avevo un grossissimo problema di passaggio di età. E andavo, c'era una libreria del cinema, e io passavo l'intero pomeriggio a sfogliare i libri su Cary Grant e su Gary Cooper, perché erano persone che avevano fatto il passaggio, cioè Cary Grant è uno, entrambi cominciano a essere attori. Humphrey Bogart fa l'attore a 50 anni, no? E sembra che non abbia mai avuto un'età prima, cioè vi immaginate Humphrey Bogart a 20 anni, ma cos'era? Cioè un pezzo di legno, una schifezza, no? Cioè, sono questi personaggi che c'erano ai tempi dei film degli anni 60-70, che erano le facce, no? Cioè tu volevi avere una faccia vera da uomo e imitavi uno di questi, no? E io veramente, che ero in un momento di passaggio, sfogliavo continuamente le foto per dire ma come facevano, come ci sono arrivati, no? E mi facevo le rughe allo specchio. E allora, la cosa divertente è che questa cosa qui è secondo me una cosa che dura moltissimo tempo, no? Nella vita. Poi a un certo punto uno si rassegna, cioè a un certo punto uno capisce che sei diventato tu l'attore, cioè che in qualche modo la tua faccia ormai devi accettarla, cioè devi rinunciare al fatto che la puoi malleare oltre un tot. Ma anche il fatto che puoi ridere delle tue situazioni imbarazzanti. Sì, arrivi a un punto in cui riesci a guardarti dal di fuori, e questo c'è nel riso e il pianto, no? Certo. In cui il sentimento di imbarazzo è un sentimento che riesci a sentire sulla tua pelle e allo stesso tempo a osservare dal di fuori. Sei certo. Più o meno però preso e libero dallo stesso sentimento. Questo richiede il fatto che tu non ti senti più questa maschera che non aderisce, no? Che è l'asca, ma in realtà riesce addirittura a vederti dall'esterno, cioè c'hai una distanza. Cioè, ma certo, questa è l'abitudine furbetta allo specchio, l'abitudine a specchiarsi negli altri, no? Secondo me quello che succede a un certo punto nei passaggi d'età è che accetti che siano gli altri, siano certi altri che hai molto vicino che ti danno la faccia, no? Cioè, secondo me uno si sposa per questo motivo, cioè nel senso che alla fine tu hai bisogno, cioè, gli specchi costano troppo, sposarsi costa meno. Allora se uno c'ha una persona accanto, in realtà c'è una persona che ti ridà la faccia, no? Cioè, ma guarda che non è, poi si fanno anche figli per questo, perché i figli sono le uniche persone a cui ti sembra di somigliare, non è mai vero. Però guardandoti ti specchi in loro, no? La tipica, mi sono specchiato in mio figlio, che non ti assomiglia affatto, quello è figlio di un altro e non lo sai, no? Però il punto è che a un certo punto servono a questo le parentele, cioè a capire che ci sono delle persone a cui tu somigli e quindi presumi di capire com'è la tua faccia, poi non la saprai mai com'è la tua faccia, no? Va bene, io invece la vedevo più come il fatto che il tempo è galantuomo, e scolpendo un po' alla volta ti rende più, diciamo, non insensibile, ma più capace di accettare e anche partecipi a un mondo in cui magari... Però non tutti, dai, no? Cioè, metti che no. Ti cadono le guance, Oh, all'improvviso. Beh, succede. Come pantalone. Ti viene il doppio mento, per esempio. Cosa fai? Accetti il doppio mento? No, è un momento triste. Il doppio mento. Un momento triste, però poi... Insomma, è un momento di doppiezza, il doppio mento. Sì, sì. No, e poi c'è un altro aspetto che ha a che fare un po' con questa parola grossa che possiamo dire... No, col conformismo, ecco. L'imbarazzo rompe il conformismo. E un appunto che avevo preso: per certi aspetti si può sostenere che non è mai ridicolo chi mai si espone, chi mai stona con la coralità della verità dominante. Cioè, in qualche modo, appunto, innova, apre una pista il fatto che puoi permetterti di stonare, no? E non solo, l'imbarazzo può essere un antidoto verso comportamenti che sarebbero altrimenti inopportuni e volgari. Ossia, è come se l'imbarazzo o l'arrossire fossero la testimonianza che la deriva dell'arroganza è ancora, diciamo, è arginata. Perché l'arroganza, la sfrontatezza di cui parli anche nel libro, in fondo è non rispettare minimamente il contesto, lo spazio, no? Il limite, è la smodatezza. In fondo l'imbarazzo è chi si preoccupa di stare o di rispettare certi modi, e poi questi modi naturalmente cambiano, ma chi non li rispetta è tipicamente il delirante, cioè delirio. C'è un protagonista del tuo libro che è Remo Bodei, che aveva scritto un libro che si chiama Logiche del delirio. Poverino. E che raccontava come appunto delirio viene attraversamento della lira, del solco, del terreno coltivabile. Quindi delirare è come andare, uscire dal tuo terreno e andare verso un altro terreno. E la persona con cui ho fatto la più grossa gaffe della mia vita. Infatti, la racconti nel libro. Infatti. Cioè, lui mi ha fatto un complimento e io, che, per cui, che ero veramente era a disagio, perché era una persona che molto importante, stimavo, e io ho detto: io non sono umile come lei. Dopodiché ci siamo guardati... A sé, confermando che i complimenti mettono a disagio, perché lui ti aveva fatto un complimento. Sì, io ci siamo guardati, entrambi con uno sguardo terrorizzato, e ci siamo girati a 180 gradi e ce ne siamo andati, quindi è stato veramente un trionfo, secondo me. Però, per dire, questo fatto di poter delirare o attraversare la lira, andare oltre il presupposto ragionevole o il presupposto, diciamo, tornaconto, perché stare nel terreno che coltivi è più, diciamo, economico, diciamo, rispetto all'uscire, è un aspetto che viene recuperato per esempio quando parli della balbuzia, no? È interessante, c'è questa parte del libro dedicata a Michel Desardeaux, dove è una parte, di quelle che più mi è piaciute, dove si parla anche dell'afasia, no? Come... Sì, del fatto che i veri folli, cioè i veri idioti, cioè i veri folli di Dio, cioè che insomma i grandi mistici dei primi secoli del cristianesimo, ma anche per esempio dell'Islam, ma anche c'è di tutto il mondo Zen, sono persone che balbettano, oppure che addirittura ci sono i primi padri della Chiesa che si rifiutano di parlare nella propria lingua e parlano del Vangelo soltanto in lingue che non conoscono, per poter dire delle cose che non vengono rovinate dal fatto che loro sono padroni della lingua, no? Cioè questa cosa per cui il balbettare è un segno divino, no? L'afasia è un segno divino, cioè si viene toccati da questa grazia per cui uno non riesce più a parlare, no? Perché nella Bibbia si è toccati dal tizzone ardente che ti tocca la lingua e quindi smetti di parlare. Però questa cosa è interessantissima, del fatto che non puoi avere un'illuminazione se non c'è una rottura della lingua. Cioè, in qualche modo la lingua è proprio la cosa che deve essere tradita perché ti consenta di fare passare qualcos'altro, no? Ci sono delle storie bellissime, perché poi intanto tutti questi primi santi che vivono tutti in Asia Minore, in Turchia, cioè tra Efeso, in realtà sono degli eremiti. Poi improvvisamente dicono, ma tutto sommato quello che faccio... Qua ti leggo, una parte di loro si dedicherà espressamente, cioè di queste persone che rifuggono, no? Lo leggo dall'inizio, di un tipo simile di indecenza... Solo gli indecenti. Di impertinenza sarà l'operazione che altri mistici faranno sulla lingua. Non solo si permetteranno di brutalizzarla, di reinventarla, di imbastardirla, creando un pidgin che collega effettivamente il cambiamento e lo provoca allo stesso tempo. Una parte di loro si dedicherà espressamente a predicare in altre lingue, adottando l'idea che solo alienandosi in una lingua altrui sia possibile slegarsi, liberarsi dalle pastoie del già saputo e dell'ovvio. Questa insofferenza nei confronti del già dato sarà un volano formidabile della costituzione e della diffusione di nuove confraternite e di nuove alleanze e allo stesso tempo lo scardinamento definitivo di un mondo classico. Sì, loro sono quelli che inventano il volgare. Cioè, la cosa interessante è che questi che sono gli indecenti, è bellissimo perché la parola indecente significa non senza mutande, ma significa uno che non sa dire. Cioè, uno che la cui lingua non è competente. No? È bellissima questa cosa. E la cosa fantastica è che sono loro che faranno il vero passaggio tra il latino e il volgare, perché sono persone che non parlano nella lingua in cui si dovrebbe parlare e quindi parlano in una lingua che è ancora incerta, che è la lingua che si parla nei mercati e che loro adottano, ma non per una strategia, ma proprio perché non vogliono ricadere intanto in una lingua libresca, cioè questo rifiuto totale, no, della scrittura in questa cosa, è proprio, ha molto a che fare con i koan questa faccenda. E poi loro fanno anche moralmente gli indecenti, cioè per poter accompagnare questa indecenza i pellegrini scendono in città, vanno al bordello, si mangiano il venerdì santo tutti i dolci che ci sono, entrano in chiesa e pisciano, cioè fanno delle cose veramente, cioè, pensate, persone che sono ritenute da tutti dei santi fanno queste cose, no? E la cosa impressionante è che c'è comunque alla base lo scarto, cioè loro devono fare uno scarto rispetto al passato. È bellissimo perché lì mancano due capitoli, c'era un capitolo che avevo fatto sugli indecenti nell'Islam e un capitolo sugli indecenti in Giappone, perché per esempio nel mondo Zen sono delle cose esilaranti, cioè quando lo Zen arriva in Giappone, moltissimi, quando il buddismo arriva in Giappone, molti monaci vanno a studiare in Cina e non capiscono nulla, cioè non capiscono i ruoli, per cui a un certo punto c'è uno di questi, che è il grandissimo, uno dei grandi fondatori dello Zen, che gli viene richiesto di accompagnare il cuoco al mercato a fare la spesa. E lui accompagna questo vecchio cuoco e dice, ma scusami, ma tu sei un'età, come mai ti fanno ancora fare il cuoco e non ti hanno promosso? E poi quello gli dice, tu sei cretino, cioè io sono l'abate, cioè io per questo motivo sono quello che insegna agli altri. Cioè non hai capito che questa è proprio la logica del rovesciamento, del fatto che non... Tu ti aspettavi una cosa, ma è il contrario, no? Non c'è lì. No, qua non c'è, però stavo recuperando un'altra parte che non c'entra direttamente con l'indecenza, ma qua avevo scritto bello. Bello? Sì. Ma no, cioè, pubblicato anche il mio, cioè. Bello. E innanzitutto è divertente quello, una battuta sulla attendibilità di ciò che si dice online, perché c'è tutta una critica comunque riferita a com'è che funzionano i social media, che è una delle ragioni per cui in fondo oggi che significa imbarazzarsi anche, no? Io la prima cosa che ho pensato in fondo è subito penso a degli studenti e mi chiedo molte volte se loro hanno il tempo o occasione di imbarazzarsi, perché gli spazi di convivenza, coesistenza, prossimità tra loro sono molto limitati o sono sempre molto mediati. Ci sono ricerche che ci dicono che nonostante noi cerchiamo costantemente il contatto con l'altro attraverso i nostri dispositivi, però appunto soffriamo un'interruzione permanente. Ci sono studi che ci dicono che noi ogni volta che stiamo facendo un lavoro, stiamo scrivendo un articolo, anche un'email, ma per cui dobbiamo impegnarci, veniamo interrotti, impieghiamo grosso modo 23 minuti per tornare a concentrarci su quello che stavamo facendo. Ma se non abbiamo nessuna interruzione nei 3 minuti, ci autointerrompiamo da soli. Cioè diciamo, siamo addestrati, abbiamo un sistema nervoso per cui no, l'interruzione ormai fa parte della nostra maniera di stare con gli anche di stare con gli altri alla fine. Forse già è intollerabile il fatto che stiamo parlando da 50 minuti, un'ora senza, ma non lo è, sto vedendo che non lo è, su una parte d'ora. Non lo è, però mi chiedevo com'è che ci si può imbarazzare. Tu alla fine dici in fondo, diciamo, prima si diceva l'ho visto in TV, adesso dire l'ho visto su Facebook è la conferma che non lo puoi dire, che certo. Sì, che non c'è nessuna, l'hanno detto su Facebook, che non c'è nessuna attendibilità di quello che, però dice in tutto questo c'è una dimensione scopica impressionante, ma è tutta rivolta ai riflessi dello sguardo e non allo sguardo in sé. È quello che si vede dal buco della serratura che dovrebbe scandalizzare, però l'occhio che guarda non sa più assolutamente né vedere né scandalizzarsi. In una neutralizzazione costante dello sguardo, esso viene assimilato a ciò che viene sfogliato, fruito velocemente, uno scorrere, uno scrolling di immagini che si sostituiscono al vedente. È l'unico vero fascino dei social, quel sostituire al soggetto l'oggettività dell'immagine, il negare la funzione elaborativa dello sguardo, il trasformare la vista in puro show. È interessante che quello che offrono i social sia un profilo dove, nell'accezione etimologica della stessa parola, l'identità viene ridotta a un contorno che va riempito di immagini viste. Tutte le cianfrusaglie che si trovano nel mondo virtuale. C'è una forma ossessiva di oggettivazione, una trance dello scrolling che ricorda pratiche di annullamento dell'io e un'ascesi al contrario, o un'ascesi tout court che prende la scorciatoia dei riflessi condizionati di Pavlov o della filosofia orientale a buon mercato. No? Non te lo ricordavi? No, perché non mi hanno corretto scrolling. Due volte l'ho scritto, invece in un altro editore l'ha cancellato subito. No, non si può scrivere scrolling. Invece, però la cosa divertente è che Goffman sui social media chissà cosa avrebbe detto. Come fai a proteggere costantemente il tuo profilo da gaffe? Hai naturalmente degli strumenti, no? Per... Sai che Goffman aveva predetto il portatile? Cioè lui c'è un bellissimo pezzo in uno dei suoi libri dove lui dice cosa accadrebbe se uno entrando in una cabina telefonica simulasse una telefonata col ricevitore spiando quello che c'è fuori, che è quello che noi facciamo tutto il tempo. Cioè quante volte uno fa finta di telefonare perché non sa cosa fare, no? E te ne stai in un posto però ti dà importanza. E allora, e lui dice, ci sono delle situazioni in cui, cioè lui dice, allora, la regola dice che chi parla da solo per strada è pazzo, però ci sono delle situazioni in cui tu puoi parlare da solo per strada. Una è, per esempio, quando tu sei in una cabina telefonica, guardi intorno e la gente ti vede parlare. L'altra è quando invece cerchi di aprire la macchina con le tue chiavi, ma non è la tua macchina, è una che le somiglia. E a un certo punto capisci che non è la tua, e tu dici, e cominci a dire, ma come sono cretino, ma perché faccio questo? Cioè, ti viene consentito farlo, no? È interessante questa, cioè, e lui proprio fa una casistica del parlare in pubblico da soli, che è interessantissima. Questo però, per esempio, è una cosa, cioè, ai miei tempi, io mi ricordo quando vedevi la gente per strada che parlava da sola, eh? Non era il soliloquio, no, di un infante. Sì, ma nel senso che erano i matti, però non soltanto. Cioè, c'erano quelli che si lamentavano della vita, quelli che dicevano... Però senz'altro online ci si stressa di meno per difendere la propria faccia. Certo, ma anche il telefono... No, in realtà ci si stressa di più, ma si sente meno, si è meno esposti al rischio di perdere la faccia. Certo, certo, certo. Nonostante pubblichi di tutto, però selezioni il pubblico. Perché una metafora del web è che è il luogo dove collassano tutti i contesti. No? Sì, ma e quindi i contesti li devi ad ogni modo presagire, immaginare e profili anche pubblici in base a tutte le varie strategie che hai di filtri, di evitamenti. Ma mi hanno detto che, allora, io ho fatto questa scoperta dell'acqua calda, ho detto, ma in fin dei conti noi siamo sempre di fronte a uno schermo, cioè il nostro vero referente è uno schermo, da 20 anni in qua, cioè tu hai a che fare sempre con uno schermo, no? E allora, però è buffo perché lo schermo effettivamente è molto di più di un filtro. È qualcos'altro, cioè lo schermo ha una doppiezza perché non solo è un filtro ma ti riflette. Cioè la cosa impressionante appunto di Skype o di Zoom è che ti vedi, che è una cosa che non accadeva prima quando tu parlavi con uno. Ti controlli costantemente. Di controllarti continuamente il capello, di sapere, ah ma allora... Cioè, però questo, pensa quanto sta cambiando l'interazione. Ma ci sono nuove professioni dove la preoccupazione è proprio quella di allenarti a gestire la tua comunicazione su Skype o su piattaforme simili per poter gestire bene la tua... Beh, però già questo è interessante, mi sembra. Le tue impressioni. Col Covid, durante il lockdown, c'era tutta una scuola. Sì, su questo. Perché le conferenze o i seminari o le riunioni si cominciavano a fare, no? Soltanto per via telematica e subito si è creato un nicchio di mercato. Avete sentito questa notizia che c'era oggi sul metaverso, l'avete letta? Che una delle persone che tra l'altro lavorava per metaverso è entrata in metaverso, sapete cos'è il metaverso? Sì. È entrata in metaverso ed è stata violentata virtualmente. No? Subito. E lei ha denunciato... Erano maschi i violentatori, virtualmente erano maschi. Sì. E quindi questa cosa lei ha, prima non è stata presa sul serio, poi invece quelli di metaverso hanno dovuto introdurre la possibilità, no, non la possibilità, la costante della bolla protettiva in qualche modo. Sì. Cioè che tu c'hai anche lì, hai lo, come si chiama, la social distance anche virtuale. Beh. Però è uno spazio, diciamo, dove tradire i sentimenti diventa più difficile. Quello virtuale? Se c'hai questa bolla protettiva costante. No? Quindi cioè la cosa che in fondo il libro trasmette è che tradire i sentimenti è un'esperienza che, come direbbe Davide Sparti, che tu citi nel libro, ci ricorda che essere umani passa necessariamente per questa esperienza, per questi inciampi, per questo trasecolare, per questo... Trasecolare. No? Trascolorare. Comunque, adesso, fondamentalmente, noi vorremmo da voi sapere che siamo parte anche di un'agenzia di inchiesta. Diciamo, che cosa gli chiediamo? Cioè, diteci... Cosa vi fa arrossire? No, questo è troppo banale. Cioè, siete riuscite mai a piangere arrossendo? E arrossendo? Cioè, fare le due cose insieme? No. No, però conseguenzialmente sì o no? Prima arrossire e poi piangere. Anche prima piangere e poi arrossire. Sì, ci sta. Ma è difficile fare le cose insieme, no? Questo però sarebbe interessante capirlo. E quanto poi... imbarazzo vi ha tolto la mascherina? Non vi sentite più... più causato che... Certo, non senti, non capisci, le volte di dire le persone di ripetere, mi sentivo un tuttora, cioè, almeno, però... Sì. Meno male, meno male. Non dico meno male. Beh, però è buffo, perché effettivamente il luogo della rossia sono le gote, no? Quindi con la mascherina non è molto. C'è chi arrossisce anche sulla fronte. Sono i più bravi. Nei manga? Nei manga si arrossisce qui anche e poi qua moltissimo. ma la cosa bella dei manga è che il clou dei manga è quando il cool, che è chiamato cur, cioè il tipo cattivo, arrossisce, anche lui. Questa è la grande vittoria, che però secondo me è figa. Tex Wilder non è mai arrossito, per esempio, no? Che io sappia, penso. Secondo lei arrossiscono più gli uomini o più le donne? Ma non lo so, secondo me più le donne, questa è banale la risposta che do. Ma perché le donne hanno l'incarnato, gli uomini non hanno l'incarnato, hanno la barba in genere, che appunto c'è questa citazione di che Schopenhauer che dice che gli uomini hanno la barba proprio per nascondere la faccia alle donne, questo è il vero motivo, ed è fantastico, lui sostiene che in realtà la barba degli uomini corrisponde al pelo che c'è sui genitali. Cioè nasconde la faccia che è indecente. Invece le donne non hanno questo problema, questa è la cosa. E ti rendi molto divertente questa cosa del pelo maschile. In... Vuoi farti crescere la barba? Almeno sullo stomaco. Galantuomo nel gestire l'imbarazzo. Mi chiedevo se questa cosa fosse vera per entrambi o in realtà se sia un'ottica un po' maschile di vedere l'imbarazzo, perché molto spesso forse invece non è detto che il passare del tempo lo renda più facile per una donna gestire l'imbarazzo. E perché tu immagini o sai che da donna col tempo può essere... Allora, io parlo o perché presumi che per l'uomo no? Non posso parlare, diciamo, per esperienza, però posso pensare a una serie di situazioni dove, nonostante la donna invecchi e quindi in teoria acquisisca una certa maturità, in realtà proprio il fatto di essere matura la ponga in imbarazzo nel fare o non fare certe cose. Banalizzando, se hai una certa età non ti vestire così, se no sei imbarazzante. Mm-hmm. Esempi che avete citato prima nel gestire una maturità, in una casa erano tutti esempi maschili. C'è una cosa molto bella che dice questa polacca che ha fatto un bellissimo libro sulle emozioni, dove lei lavora un casino su Jane Austen, e lei sostiene che fino alla fine dell'Ottocento arrossire per le donne era molto charmant, cioè in qualche modo l'arrossire era previsto, cioè le donne in qualche modo sapevano quando bisognava arrossire. Perché aveva fascino e poi era anche un modo giusto di rispondere a certe situazioni, cioè invece di rispondere, no? Arrossivano e valeva come se fosse una risposta autorevole in qualche modo, no? Che è interessante, perché è tutta la questione del pudore, no? Però che è una chiave interessante, perché intanto perché pone il fatto che l'arrossire sia ovviamente un training culturale, cioè sicuramente impari a farlo, no? Impari quando va fatto. E in più però il fatto che questa era una cosa che era molto alla divisione di genere tra uomini e donne, questo fatto. Certo, gli uomini quando arrossiscono sono invece sono degli imbranati fondamentalmente. Scandalosi. Sì, c'è uno che arrossisce lì, è Lord Jim, che è uno che ha combinato i guai più gravi e non riesce assolutamente in qualche modo ad assumerli, non è meno, quindi... Però insomma, però questa cosa è interessante. Cioè la cosa interessante è che tutte queste faccende sono faccende dove c'è un training culturale che noi lo sappiamo, noi antropologi, per cui per esempio la gente sapeva piangere, sapeva quando bisognava piangere, no? La gente sapeva quando bisognava, per esempio lo sbadiglio di cui non parlo, ma lo sbadiglio è una chiave straordinaria, Cioè pensate che cos'è lo sbadiglio, no? Nel senso che lo sbadiglio non è soltanto il sonno, tantissime altre, lo sbadiglio è un giudizio tremendo, cioè quando uno studente in classe sbadiglia, tu dici, vabbè, che è finita, senso non ti, no? Cioè, e quando si è una conferenza e vedi che la gente sbadiglia, cioè, è impressionante, al teatro, immagina che sei un attore e vedi la gente che sbadiglia. No. Allora, però tutto questo è interessante perché ci sono delle costellazioni collettive, no, di queste cose. Io cito che Ignazio de Loyola, in 25 pagine cita che lui negli ultimi 3 anni, no, negli ultimi tipo 2 mesi e mezzo ha pianto 175 volte, no? Che sono i simboli perché il della pianto conversione. Per i gesuiti è un segno della conversione vera. Quindi proprio ed è impressionante come per esempio tutto il 600 è fatto di pianti maschili. Il pianto è proprio una chiave, pensate l'innominato, no? Nei Promessi Sposi, cioè è una chiave di virilità, cioè non è affatto una chiave di... E il pianto maschile è proprio codificato in qualche modo, no? Se uno non piange vuol dire che veramente c'è una vera conversione, c'è un'insincerità. Sì, il pianto come dichiarazione, no? Di autenticità, di... Però forse quello che tu... Io penso che l'imbarazzo è una costante, no? La differenza è, penso, l'intensità della tramarella che ti può comportare, che magari cambia col tempo, perché ci sono fasi in cui è proprio tu stai imparando e stai imparando a imparare, per cui ti autoservi molto. Non solo sai di essere osservato, ma ti autoservi molto. Ci sono poi situazioni in cui lo sai, hai imparato già che esistono queste situazioni, e quindi magari provi l'imbarazzo, ma non te ne fai un cruccio di quelli così, no, così pesanti. In questo senso, poco fa dicevo, il tempo può essere grande. Questo per uomini e per donne. Poi c'è anche il fatto che, in fondo, quando parliamo di aspetti così legati ai sentimenti, è molto difficile poterne parlare, perché sono sempre opachi, nebulosi, è difficile da... devi raccontare una storia, devi compararlo con qualcos'altro, devi... Non è una percezione, un pensiero, ma è un sentimento, è qualcosa di molto più... Sì, però appunto anche lì, però i sentimenti sono sempre delle cose molto più... sono delle matrici molto più, come si può dire, molto meno individuali, molto più... cioè uno secondo me quando cambia geografia capisce che deve in qualche modo avere i sentimenti che ci sono in quel posto. No, questo è, cioè, che fa parte però dell'imparare una lingua, no? Cioè se tu quando impari una lingua veramente impari anche, ci sono delle, pensate a questa cosa che è entrata nel vocabolario italiano, che è wow. Ma wow, è scandaloso. Cioè, perché no? Cioè, però è entrato in maniera fortissima. E come lo traducete? Wow, in italiano. Wow. Cioè, è impressionante perché io mi ricordo che quando sono andato in America la prima volta negli anni 80, a me mi dava un fastidio enorme, no? Soprattutto gli italiani che lo avevano adottato. E però il wow è veramente qualcosa che ha senso soltanto nel mondo anglosassone, no? Perché è una maniera pulita, no? di esclamare una cosa. Noi non diremmo wow, no, cioè, no. Non so, forse già sei stato incorporato dalle nuove generazioni come una cosa naturale, forse. Sì. Però ad ogni modo la questione è sempre questa dialettica tra ciò che è atteso e ciò che è inatteso. Quindi se l'imbarazzo è sempre il risultato di questa frizione tra qualcosa che è atteso ma viene deluso perché sbagli, perché stoni, perché genererà sempre o una sorta, no, di puoi arrossire, puoi fare marcia indietro, puoi fare una battuta sul tuo stesso. C'è una cosa divertente che c'è in milanese, credo, in lombardo, non so dove, perché c'è anche in siciliano, che fare un gran tronzo di malafiura, no? Che in siciliano significa fare un grande torsolo di cattiveria. Il torsolo è quello del cavolo, no? Fare un grande torsolo di cattiva figura. Ed è fantastico, però io l'ho sentito anche, c'è un'espressione anche qua molto simile, che ha a che fare col fare cattiva figura, no, cioè non l'avete in mente, no. Cioè è divertente perché nel gran torsolo c'è proprio, come si può dire, l'aspetto vegetale della cattiva figura, del fatto che è come se fosse una cosa che è nata dal terreno, non puoi farci nulla, no? Cioè, la cattiva figura è interessante, la cattiva figura è qualcosa che non è che te la levi così facilmente, no? Cioè fa storia, cioè quello ha fatto cattiva figura. No? E sarebbe divertente questa cosa del... Sì, non è divertente. Fare una biografia per cattiva figura. Rifare le biografie per... Cioè, questo, cioè, vabbè, era un grande poeta. Però... Ma quante cattive figure ha fatto? Che so, Dante incontra Beatrice e per esempio incespica. Oppure che so, non le apre la porta. Per esempio, cioè fare una storia dei personaggi celebri per cattive figure. Certo. Beh, facciamolo, vi invito assolutamente, secondo me. Beh, prendendo due biografie, che so, biografie esemplari, cioè che so, Darwin era un... aveva costantemente problemi di stomaco e quindi faceva dei rumori costanti ed era, pare che fosse molto imbarazzante avere a che fare con lui. Poi c'era l'alito, c'è un sacco di queste storie di cattive figure atroci, di personaggi storici. Tu, se non sbaglio, parli qua nel libro delle cattive figure che il nostro ex primo ministro faceva ripetutamente. Sì, ma avranno cancellato, il Lenaudi non ha voluto, dice che mi avrebbero mandato via. Sì. No, no, quella era una conferenza di Carlo Ginzburg, dove lui diceva: io mi sono vergognato in un certo momento della mia vita perché ero all'estero e tutti dicevano tu sei italiano come quello lì. E quindi c'era proprio la vergogna del maschio italiano all'estero che era costantemente confrontato col Berlusconi. Però insomma, c'era un'altra storia divertente sulle cattive figure. Vabbè, insomma. Però poi sono gli amici che... Cioè, la cosa bella è che sono gli amici pietosi, quelli che tu fai la cattiva figura e loro non te lo fanno notare, no? Cioè, i veri amici sono quelli che tu fai. Diventa barzelletta. Una figura. Ma nemmeno, cioè, quello può diventare. Però quello già. Ma ci sono delle cose in cui amici veri proprio non lo dicono. No? Cioè, interessa, cioè, questo. Stendi è famoso perché il contrario del torsolo di cattiva figura è stendiamo un velo pietoso. No? Questa è la cosa fantastica. Allora, i veri amici sono quelli che stendono il velo pietoso. Dicono, E che sdrammatizzano pure. Sì, ma infatti l'altra cosa di cui non parlo lì è lo sfottò. Cioè sicuramente si può arrossire perché gli altri ti sfottono. Però è vero che l'essere sfottuti aiuta nel training, no, dell'arrossimento. Sì. È una brutta figura anche se non ci si imbarazza. Cioè si può diventare impermeabili all'imbarazzo, tanto che non è più una brutta figura. Sì, però il punto è, certo, puoi non arrossire, il punto è che poi se c'hai un contesto intorno, cioè la fai comunque, cioè c'è una... Per gli altri sì, però il tuo essere... Tu non la registri... Certo, al dubbio, non c'è dubbio, certo. Finiscono sempre con la stessa faccia. Certo, è vero. E poi si dimentica in questo modo anche. Chiaro, è vero, certo. Sì, è vero che poi in particolare i politici sono abituati a giocarsi la faccia costantemente, perché poi è un po' questo. Cioè una... Il punto è che i non politici hanno, secondo me, un limite. Cioè c'è un limite oltre il quale non puoi giocarti sempre la faccia, questa è l'altra cosa. Se, lo puoi fare se fai l'attore in qualche modo, quindi gli attori arrossiscono, quindi sarebbe interessante capire se gli attori arrossiscono. Vabbè, si è trasformato praticamente in un seminario di psicanalisi. Adesso la nostra segretaria, cioè noi non chiediamo molto, però vi diamo delle garanzie estreme. Vendiamo anche delle cose, sono dei gadget, che le chiamo recalcomanie, che sono dei piccoli recalcati che uno si può applicare spesso se ha bisogno. Sono come i patch quelli cinesi che levano i dolori, vero? Mi vendo una recalcomania. E quindi, però questo è tutta invidia estrema. Quanti milioni di copie ha venduto? Non lo so adesso. Quest'ultimo che ha fatto. Qual è? Qual è l'ultimo? Perché... Ne esce uno tra qualche mese. Una rivisitazione della Bibbia in chiave psicanalitica. No, ma ne ha fatto uno molto psicanalitico adesso. L'ultimo che adesso è in libreria ed è... Si vede che non è in audio. Da poco. Però insomma questo... Però è interessante, secondo me, questa faccenda del... Cioè, secondo me, tutti questi qui... Io ho fatto una fatica enorme a scriverlo, questo libro, perché ho fatto una fatica enorme a capire qual era il centro. Nel senso che, purtroppo, io l'ho proposto a Andrea Bosco durante una presentazione di Essere Amici, e lui mi ha detto: che altro libro vorresti fare? Ho detto uno sull'imbarazzo, ma così l'ho buttata lì. E poi l'ho dovuto fare. E la cosa tremenda è che effettivamente mi sono detto: ma perché? Cioè, qual è il motivo? Questo libro già c'era tra le righe di Saperci Fare. Sì, però Saperci Fare è 25 anni prima. Sì, anche del malinteso. Sì, infatti lì c'è molto malinteso. Però qui c'è questa faccenda delle sfumature dei sentimenti che secondo me... Però appunto ho fatto moltissima fatica a capire che il centro era questo delle sfumature. No? Poi l'ho dato da leggere al mio amico Piero Zanini, che mi ha levato il saluto per 8 mesi e che poi mi ha detto: io no, non posso farci nulla. Quindi proprio terrorizzato, io non sapevo che fare. Cioè, per dire? No, lui mi ha detto: guarda, però non c'è. Non... C'è avuto fa fare. No, ma però lui non riusciva a trovare il bandolo. Io poi, in realtà, dopo questa cosa che proprio mi ha azzerato, sono riuscito a capire come stavano i pezzi. Questa è stata una cosa chiave. E comunque raccomando a tutti di prendere l'ascensore almeno 3-4 volte al giorno. Questo è... E viene considerato come un dispositivo di produzione di massa dell'imbarazzo. L'ascensore, va bene? Soprattutto adesso che lo potete prendere con gli altri, che prima Però anche da soli è imbarazzante prenderlo. Cioè, quando tu ti trovi allo specchio in ascensore con la mascherina e dici, ma quanto sono coglione, perché non me la levo? E poi ti chiedi, ma me la devo levare o no? No? Sono, cioè, dire, la, sono le due cose che resteranno nella storia di questi annali, sono quelli che guidano da soli da 500 con la mascherina. E dici, ma perché lo fa? Perché teme se stesso. Metti che mi autocontagio. Ma guardate che ne vedete ancora tanti, cioè questi che dicono, ce l'ho. È un gadget. No, comunque vedete, cioè, abbiamo vissuto in questi anni delle situazioni talmente esilaranti, no? Però è la cosa assurda è che non è stata costruita una comicità su questo. Cioè, era talmente, cioè, nessuno è riuscito, la cosa che mi fa incazzare è che nessuno è riuscito a produrre delle maschere che ci rendessero trasparenti. Ci vorrà niente, cioè, in cui tu vedi il resto. Ci sono. Sì, ce l'ha solo Grillo. Ecco. Però in qualche modo è come se questo fatto di essere invisibili sia stato vissuto come un'autopurizione. Dice, vabbè, ok ragazzi, io sono contagioso e più non vi faccio, in più non posso nemmeno mostrare la faccia, no. Però l'altra cosa è che veramente non c'è stata una produzione di maschera, cioè, metti, la gente poteva andare in giro in maschera tutto l'anno divertendosi moltissimo, no? E non l'ha fatto, perché? Cioè c'è veramente c'è stata una specie di e questa della comicità è tremendo, perché io credo che nessuno ha fatto, perché non sono stati due anni allegri, forse era difficile scherzarci. Beh, ma anche durante la guerra la gente faceva comicità. Scherzava, sì, sì, sì. Sì. Cioè questa è stata una strana guerra psicologica contro se stessi, moltissimo, dove la gente, secondo me, si è esacerbata in maniera terribile. Però soprattutto, cioè, si sono prodotte delle situazioni comiche che noi dovremmo tutte recuperare. Il saluto, per esempio, no? Tac, tac, no? E questa cosa dei saluti... Perché uno, tutti, allora, imbarazzati, perché non sapevamo mai come fosse, cioè, se l'altro poteva... Se uno ti dà un pugno non ti contagia. Però perché il pugno dovrebbe contagiarti? Cioè, qual è il motivo? Cioè, perché la mano e il pugno no? Cioè, c'è un motivo? No. Il gomito magari, cioè, però... Era un imbarazzo generale, non sapevamo come comportarci. Sì, è vero, è vero, è vero. C'è stato un'incapacità di creare veramente dei rituali. Questo è verissimo. Cioè, questa cosa che sembrava dovessimo moltissimo ritualizzare, invece non ha creato assolutamente rituali. Tranne che in chiesa era divertente. Perché le chiese, essendo furbe, hanno inventato un sacco di cose. Che so, per esempio, la cosa più divertente in chiesa, scusatemi se faccio questa cosa, è quando la gente va a fare la comunione. Adesso, sapete come funziona, che fanno la comunione, a un certo punto c'è l'ostia. Allora, quando la gente si prepara ad andare a prendere l'ostia, sciacquandosi le mani, dice, ma perché? Cioè, sembra che quello sia un momento drammaticissimo. Poi in più che so, il prete c'ha i guanti, te li dà, però lui tutti... Allora c'è questo passaggio, non c'è più passatevi un segno di pace, ma passatevi la mucchina. No? E allora tutti fanno questa cosa per cui c'è questa specie di lavaggio generale di tutti per andare a fare la comunione. Che però anche questo cioè, è il battesimo, il nuovo battesimo con la mucchina, interessante. Toglie l'impurità. Toglie l'impurità, ma infatti su questa cosa... Però la Chiesa, essendo furbetta, questa cosa l'ha subito cavalcata, scavalcandola. Cioè, dai, noi siamo siamo al di là, al di sopra. Pure. Beh. Va bene, noi siamo qui. Allora, facciamo due tipi di terapie. C'è una terapia breve. Che va grande. Una terapia breve, diciamo, con delle dosi d'urto. 4 ore alla settimana. No, può durare perché ci sono i lacaniani che in Francia fanno una terapia tu non so se lo sai. No, tipo paghi sempre uguale. Uguale, questo. Però può durare 5 minuti la seduta, perché tu arrivi e dici ho fatto questo sogno, dici il sogno e il tipo dice stop. Oppure oggi non so, mi sento poco loquace, ok, detto l'essenziale. È vero, paghi sempre 100 euro l'ora, certo, però può durare 5 minuti come 50, ma mai arriva, no, però a 50. Noi facciamo l'opzione doppia, cioè da noi facciamo la terapia breve senza lacrime, quella lunga con le lacrime, potete lacrimare quanto volete, questo Comunque questa è un'altra cosa, cioè la gente lacrima durante la terapia moltissimo. Sì, no? Si scongelano le emozioni. Certo, mi sembra fondamentale, sì. Io sono a favore delle lacrime. Dipende però, con la G o con la C? La lacrima. Beh, si chiamano lacrime. In portoghese si chiamano con la G. Lagrimas, tormentos, disilusois. Ma è bellissimo perché le lacrime sono appunto in tutte le canzoni di Shoro, sono fondamentali. Che bello che esiste lo Shoro. E comunque, insomma, l'altra cosa che possiamo fare è possiamo fare una terapia cantata. Se volete, abbiamo alcune canzoni molto imbarazzanti che vi facciamo cantare a voi. Questa è un'altra cosa. O possiamo fare un bis del vino. Sì, questo non sarebbe. E ritorniamo in piedi al bancone. Sì, torniamo in piedi. Solo i maschi. I maschi in piedi sul bancone. Vabbè, niente, grazie molte. Non so, dovete bere, consumare. Il libro, non lo so, cioè qua lo vendono, però non è che vi viene. Il libro costa niente. Cioè, il libro per quello che vale, cioè dividete, costa 12, come in Turchia, quante parole ci del 100%. Sono? Quante parole ci sono? Ci saranno almeno un paio. No, cioè adesso dividete, secondo me, insomma, levando tipo le preposizioni, secondo me 20 centesimi a parola, dai, vabbè, sì. È un nuovo modo per poter vendere i libri. Poi un libro, il libro si conclude col fatto che potete venirmi a chiedere il rimborso, cioè se il libro non vi ha fatto imbarazzare siete pregati di venire a cercarmi e di chiedermi il rimborso, quindi io sono disponibile, eh? Così come è scritto è peggio, perché potete venirmi a cercare fuori di voi per darmele, ci vediamo fuori. No, sapete dove venirmi a cercare. Se proprio non ce la fate, sapete dove venirmi a cercare. Che però è tremendo, cioè, della serie, tradiamo. Vabbè. Grazie mille. Grazie. Rompiamo il gelo, il ghiaccio. Rompiamo gli invito. Possiamo staccarci dai micro? Tu hai fatto la domanda giusta, quando uno ha la faccia come un culo, si può imbarazzare.